24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La giraffa dello zoo di Copenaghen. Qualcuno ha scritto in queste ore l'ambizione smisurata di Renzi, l'ambizione smisurata del PD. Vi aspetterete che io smentisca queste parole, e invece non lo faccio. Stai attento perché ti bruci, perché rischi di bruciarti. Chi fa politica ha il dovere di rischiare in alcuni momenti. Vale naturalmente per le singole persone, ciascuno di voi lo sa meglio di me. C'era bisogno di Goldrake, dunque, dell'alabarda spaziale. Abbiamo Renzi, evidentemente è così, dai, ormai sì, ci saranno le consultazioni, Napolitano, vabbè, che fa dall'incarico ad Alfano, ho capito, a Berlusconi, le elezioni, no, sono una sciocchezza quelle. E quindi Renzi sarà il prossimo presidente del Consiglio. Allora, cari ascoltatori, buongiorno, questo è 24 mattino, sono le 6.32, ormai 6.33. Saluto Elisabetta Fusconi, oggi qui in redazione, e insieme al nostro alpino Peter Bescapè in regia. Insomma, la domanda che vi pongo è questa, mandateci via sms 349-238-6666. Allora, fa bene o fa male? Come un gran giocatore di poker, si gioca tutto. Qualcuno gli ha detto: attento Matteo, hai un colpo in canna, uno, o ti lanci o ti bruci, come lui stesso ammette. Che succederà? Allora, apriamo il Parlamento, dai, apriamolo. E c'è Nicole qui. Il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre. Allora, io voglio salutare intanto Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Massimo, buongiorno e ben ritrovato. Eccoci. Buongiorno. Sai chi ti presento? Ti presento un cronista parlamentare che è stato parlamentare di quel partito che adesso un po' è sotto esame. Si tratta di Andrea Sarubbi, buongiorno Andrea, ciao, eccoci qua. Buongiorno a voi, scusate la voce ma c'ho un po' di febbre. Mannaggia, no, questo ci dispiace, sarà quello che è successo ieri che... Sì, sarà quello, allora durerà parecchio. A vedere il PD un po' così. Allora, subito domanda secca, ha fatto bene o ha fatto male Matteo Renzi a giocarsi tutto? Andrea, ha fatto bene? Male, ma non è detto che gli vada male, cioè nel senso che io a quel giro di carte non avrei giocato in quel modo. Tra un uovo e la gallina avrei aspettato forse la gallina, lui ha preferito puntare sull'uovo, poi tra un po' di tempo si vedrà. Il mio timore, lo dico in maniera proprio così, insomma, seria, dico timore dal suo punto di vista, poi voglio dire come italiano vedremo che cosa accadrà, se sarà un bene o sarà un male, ma è che si passi al governo qualche tempo, forse addirittura qualche anno, ma che poi alle prossime elezioni sarà lui che avrà le pile scariche e quindi regalerà il paese a qualcuno. Mannaggia, che analisi impietosa, cioè impietosa un po' già sul viale del tramonto in realtà, cioè sarà l'inizio e la fine o in qualche modo comunque della sua carriera, no? Beh no, insomma, non è che sta fermo, nel senso che due anni qualcosa la farà, credo che questa roba lo terrà un po' sulla brace, e allora quando vai sulla brace a 39 anni non è che ce n'hai 65, quindi va lì in un momento in cui i soldi non ce ne sono, va lì poi con la stessa maggioranza di prima, perché questa è una cosa che in pochi hanno detto, perché sì. Qui adesso si vagheggia di fuoriusciti da una parte e dall'altra, ma La matematica mi dice che senza Alfano i governi non si possono fare in questo momento. Quindi, ma infatti Alfano che dice le elezioni, ma sembra un po' così un fuoco di paglia. In realtà stare al governo è troppo invitante. Non lo so, però certo, da Andrea Sarubbi, caro Massimo, già c'è questa analisi e non proprio ottimistica, no, su quello che è la scelta di Matteo Renzi. Vabbè, voi su Libero oggi avete un'intervista anche ad Amadori, no, di Coesis Research, che dice il PD ha già perso così 800.000 voti, queste secondo le analisi. Vabbè, ma manco ha iniziato e già subito si inizia a dire che è finito, in pratica. Massimo Di Manzoni. Sono tutti voti virtuali, comunque. Beh, per chiaro, il momento, come chiaro. Tutti i sondaggi, per cui sì, lasciano il tempo che trovo, l'abbiamo messo, però è più una curiosità. Fatto bene o fatto male da che punto di vista, dal suo o dal nostro? Perché poi questo è il discrimine. Dal suo, secondo me, non ha fatto bene, ma non poteva fare altrimenti. Mi spiego, stando fermo dove era, a sorreggere un governo assolutamente inadeguato, come ormai c'era dimostrato, e con un anno di elezioni, c'è la Sardegna domenica, sì, ci sono le europee, si sarebbe logorato molto molto ma molto, certo, molto, si sarebbe rosolato, cioè ormai si era spinta talmente avanti la situazione che o uno dice prende in mano la situazione oppure no. Ricorda ieri, io sono d'accordo che adesso, cioè, non è che la strada sia rose e fiori per lui, no, anzi è vero, anzi, che la maggioranza è sempre la stessa, i soldi non ci sono, certo, e soprattutto è vero anche che sappiamo quanto è ambizioso e determinato a conquistare il potere Renzi, mica tanto sappiamo quello che intende fare. No, ma è chiaro, ricordava un po', almeno ieri su Twitter girava la famosa frase di Nanni Moretti, Necce Bombo, ricordava il celebre film di fronte alla domanda che Nanni Moretti si pone. No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri. Non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No. Sì. Ciao. Andrea è un po' così, no? Cioè, alla fine è arrivato, vengo si nota di più così, se c'è, questo è il dato di fatto. Ma l'idea è che forse questa è una maratona, no? Questa della politica, eccetera, e che alla fine lui abbia deciso di scattare molto presto, ecco, questa è la verità. Chi scatta molto presto, anche se è il favorito, rischia più degli altri, questo è molto chiaro. Poi io non sto dicendo che il governo Renzi debba far male per forza, anzi io personalmente gli auguro ogni bene possibile, ma soprattutto lo auguro all'Italia, può darsi che trovi ministri migliori dei precedenti, diciamo che ci sono stati dei ministri del governo Letta che proprio non è che abbiano brillato né per acume e né per presenza, di alcuni farei fatica a ricordare i nomi addirittura. Pur essendo per esempio, dai, dinne qualcuno e dai, su, togliamoci. Vado su un bersaglio facile, il ministro delle attività produttive non mi pare che abbia prodotto particolarmente, ecco. Tanto per dirne una, ecco. Cioè, tra l'altro mi cogli chi è? No, ma non ne si sono. Vedi che non lo sai. Appunto, ma chi è? Trigilia, no? No, ecco, no. Questo è un altro che lo stai ricordando tu, che è il ministro. Massimo, aiutami te, chi è il ministro delle attività produttive? Lo sviluppo economico, Zanonato, vabbè, celeberrimo, no, celeberrimo, ma mai fregato, Andrea, sviluppo economico lo sapevo anch'io, se mi dici attività produttiva, vabbè, Zanonato, però Zanonato si è notato, cioè si è stato nelle polemiche, si è notato quando il suo partito l'ha attaccato, questo. Un altro che si è notato come viceministro è stato il viceministro dei trasporti e delle infrastrutture, ma si è notato soltanto perché i giudici hanno detto che non poteva avere il doppio incarico, perché anche lì non ha fatto nulla perché è stato al governo senza deleghe, e anche questa insomma è stata un'altra grande anomalia, no? Anomalia, sì. Mi riferisco a De Luca. Insomma, certo. Ce ne sono stati diversi che non è che abbiano. Ma adesso lasciato... arrivano i nuovi, cambia tutto. Ma cosa cambiano? No, nel senso, vorrei capire, a parte i nomi, Massimo, cosa cambia Massimo De Manzoni? Cosa cambia davvero con Renzi? Perché poi questa è la domanda che si pongono tutti. Beh, intanto adesso c'è un'infornata di nomine pazzesca e le fa lui. Quindi quello cambia. Vabbè. A proposito della metafora della maratona, è scattato presto, ma sarà il rifornimento lì. Quindi, sì. Quello doveva fare, quello è un altro buon motivo che aveva Renzi. Dopo cosa cambia, francamente non lo so. No, beh, certo, cambia di nomi e i nomi cambiano, contano. I nomi sicuramente. Poi cambia... se ne sentono da brivido anche nel... Per esempio? Dille quello che ti fa venire più i brividi. Beh, sei il nuovo che avanza i vieti alla giustizia, per dire, o Binismaghi all'economia. Binismaghi, Baricco, la cultura, dicono. Aspettiamo di vedere. Io devo dire la verità, l'Italia è ridotta in un modo tale che, nonostante l'anomalia pazzesca in cui avviene tutto questo, perché non dimentichiamoci che è il terzo Presidente del Consiglio su cui gli italiani non hanno avuto modo di mettere becco, ma questo qui è stato addirittura scelto in una direzione di partito, per cui. È una roba che dal punto di vista istituzionale, insomma, è corretta, nel senso che noi siamo una democrazia parlamentare, ma che lascia molte perplessità. E l'Italia avrebbe veramente bisogno di una bella scossa, quindi io faccio il tifo per Renzi, in realtà, al di là di quello... Diciamo, ne scrivi male, ma no, non è che ne scriva male. Ma dai, siete pronti a impallinarlo, a dire tra 10 giorni cosa hai fatto su questo, quest'altro, cosa... Siete lì. Alessandro, il problema vero è che io di Renzi, di cose concrete, ne ho sentite dire due, e tutte e due erano sbagliate. Una era che, abolendo il Senato, si risparmiava 1 miliardo, abbiamo fatto i conti, che non era vero. L'altra, ancora più clamorosa, è stata sulle pensioni d'oro, dalle quali lui immagina di ricavare cifre pazzesche, e conti le pensioni d'oro in Italia. Ma su quello poi forse ha già fatto i passi indietro, ma poi si vedrà il Jobs Act, cos'è per ora, una conferenza stampa, ma si vedrà che cosa... Ora è chiamato alla prova, comunque i nostri messaggi sono: ma si è dimesso da sindaco Renzi, ci chiede un ascoltatore. Beh, non ancora, ma adesso che sarà premier, quando sarà premier, si dimetterà chiaramente da sindaco. Vabbè, questo ci scrive, ha fatto una stronzata. Vabbè, questo è il parere. PD, siete solo ipocriti, ci scrive un ascoltatore. Oppure guardate che chi ha fregato un compagno di partito è pronto a fregare tutti, mai più voto PD. Letta fa ridere, Renzi è un suo cugino. Vabbè, ci sono dei messaggi un po' contrastanti. Civati, sentite Civati, no? Che cosa pensa di quello che è successo. Civati è l'unico che ieri si è alzato a dire: ma no, ma che stiamo facendo? Ha usato, sono democristi, vengono dalla DC. Il problema è che stiamo facendo qualcosa che la DC è una DC splatter, questa. La DC splatter, anche detto. Letta è come la giraffa di Copenaghen. A proposito di Letta, caro Andrea Sarubbi, lui è composto, educato, poche volte i collaboratori l'hanno visto sbroccare, ma dai giornali un paio di battute sono: su Repubblica, i farisei mi hanno sfiduciato. Oppure al Fatto Quotidiano, quando è andato a trovarlo Zanda al mattino per cercare di fargli capire che insieme a Speranza che era meglio, è accompagnati alla porta e ha sibilato filibustieri. Ora chissà quanto c'è di letteratura descrizioni. Vabbè. Però insomma, sì, cioè nel PD vale sempre la regola ferrea, no? Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io, perché proprio purtroppo è un marchio di fabbrica di questo partito. Io ieri sui giornali del Gruppo Espresso, per i quali scrivo, avevo notato una coincidenza particolarmente preoccupante, che nel 2009, a ridosso delle regionali sarde, c'era D'Alema che stava preparando il grande biscotto a Veltroni e stava raccogliendo tessere per la sua fondazione Red, Riformisti e Democratici, e si iscrivevano da ogni corrente del PD tutti quelli che non erano veltroniani stretti, andavano da D'Alema a chiedere tessere e iscriversi. Non si capiva che cosa avrebbero fatto, doveva essere questa associazione culturale eccetera eccetera. Insomma, fatto sta che hanno accerchiato Veltroni, finite le regionali della Sardegna, perse le regionali della Sardegna con Cappellacci, l'hanno Veltroni si dimise impallinato. Adesso 5 anni dopo ancora regionali della Sardegna, si vede che è un tema che ispira particolarmente il PD. C'è un premier del Partito Democratico che poi ieri hanno voluto far passare per premier tecnico, insomma detto il vice segretario del Partito Democratico, non è che è stato preso perché fosse un insegnante all'alta scuola di perfezionamento di studi politici, ecco. Quindi, ma che c'avete, che morbo c'avete nel PD? Perché vi fate la guerra così? Allora, il voi purtroppo non mi riguarda, nel senso che io è vero che ho fatto l'esperienza come parlamentare del Partito Democratico, ma l'hai conosciuto sempre per tutta la vita, una persona della società civile. No, certo, però li hai conosciuti, insomma. Li ho conosciuti bene, li conosco bene, ho molti amici, perché questo, insomma, naturalmente poi il lato umano rimarrà, spero, sempre per la vita. Io credo che ci sia questo questo complesso dello statista, mettiamola così, cioè mentre nella destra c'è una umiltà maggiore, in cui si dice, vabbè, se è Berlusconi il capo vuol dire che lo può fare lui meglio di me, e quindi c'è una sorta di devozione anche al capo, perché arriva dove tu non puoi arrivare. Nel PD, siccome si sentono tutti grandi statisti, e il fatto che ci sia Renzi al posto di Pinco Pallo è veramente un caso del destino, perché Pinco Pallo è convintissimo che potrebbe farlo meglio. È questa sindrome qua. Però aspetta un attimo che devo andare alle informazioni sul traffico. Aggiungo che Letta, secondo sempre il secolo XIX, ha sibilato sempre, è ossessionato dal potere. Matteo dura poco. Eccola, anche questa, vai. 24 mattino. Renzi, dopo aver risuscitato Berlusconi, adesso vuole risuscitare Bossi. Io gli consiglierei di risuscitare Berlinguer. Scoop in conferenza stampa di Letta. Dichiara di sentirsi molto zen, la gatta di Milan, per cui ogni giorno puliscigli la lettiera, dagli da mangiare e fallo giocare con la palla. Milan, ho un dubbio. È più pesante un etto di marijuana o un grammo di cocaina? Sono un po' in confusione. Renzi ha messo le ali, ma mi sa che le sue ali sono di cera, come quelle di Icaro. Ad andare troppo in alto ci si fa più male quando si precipita. Dice che il decreto droga è sulla droga è la sentenza della Corte Costituzionale ha detto che è disomogeneo. Allora anche l'IMU Banca Italia sono disomogenei, quindi è incostituzionale anche quello. La Corte Costituzionale ormai non è più credibile, anche per i soggetti che la compongono. Caro Carlo Giovanardi, perché invece di rompere le palle alla gente che si fuma un paio di canne non parliamo dei fiumi di cocaina che girano in Parlamento? No, Giovanardi, no cry. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. No, Giovanardi, no cry. Ieri avevamo Carlo Giovanardi, caro Andrea Sarubi, forse hai capito che nella nostra segreteria telefonica tu ne avrai visti. Qualcuno lo stava festeggiando, credo, in maniera degna. Sì, esatto, cantando un Bob Marley dannata. Tu ne avrai visti di fiumi di cocaina, come dice, no? Visto che sei stato. Dicono che il Parlamento sia questo luogo in cui si sniffa, si pippa. Io non ho visto neanche non ho mai visto un gran per chi, carità, ecco. Per un'altra carità. Cosa che mi ha colpito il Parlamento è che fanno tutti questo gran giro di sesso e di donne e di uomini eccetera, ma anche là io facevo vita monacale in Parlamento. Cioè, sei l'unico che è stato tagliato fuori, cioè, sei l'unico che sei stato tagliato è Massimo De Manzoni, l'unico, non lo invitavano a Sarubi, no? Sapevano che non era un grande, infatti non è durato subito, via, questo non è dei nostri, via, facciamolo subito fuori. Uè, ma avete visto la foto, Massimo, ma sulla macchina, sai che Renzi arriva in Smart, no? Smart blu, grigio, adesso. Sì, adesso la Smart è come il Loden di Limonte. Sì, ma c'è solo, l'ho vista sul Quotidiano Nazionale, hanno fatto, girava su Twitter, ed è vero, hanno fatto, hanno ingrandito sopra l'assicurazione, l'assicurazione, sai che non è scaduta, è tutto a posto, ma sai cosa c'è scritto? Auto Zen. Ma non è una barzelletta, la trovi sul Quotidiano Nazionale, cioè la concessionaria. Il Cerino Letta invece sul volo d'assicurazione. Non lo so, l'Auto Zen aveva, Auto Zen, ma sembra una barzelletta per l'appunto, invece no. Ma allora, non c'è solo la politica, io vi voglio far commentare l'audio del giorno. L'audio del giorno è questo: sai Andrea Sarubi che ha detto Raffaella Fico? Tu lo sai che ha detto ieri? Ha detto che la figlia non deve viaggiare in seconda classe. Esatto, però. Non deve viaggiare, no, ma lo dobbiamo far sentire, perché io non ci potevo credere, neppure Federica Panicucci, che l'ha intervistata, quando ha detto questa cosa, era imbarazzata, ha detto, insomma, Raffaella, comunque, Raffaella Fico, parla così della figlia, avuta con Mario Balotelli, Pia, sentite! Mia figlia nel crescere saprà chi è il papà, e nel vedere magari altri figli di calciatori, non so, un figlio di un calciatore viaggia in prima classe, in treno, non vorrei che un domani lei mi chiedesse come mai noi viaggiamo in seconda e perché loro in prima, se anche il mio papà fa il suo stesso lavoro. Sentite il brusio, sentite. Massimo De Manzoni, la Panicucci. No, ma povera bambina, cari, dai. Italiani che state per prendere un treno in seconda classe, sfigati che non siete altro, disgraziati, derelitti, farabutti, straccioni, Sarubi. Cosa... Ma io sono molto preoccupato perché a scuola di mio figlio c'è il figlio di un calciatore della Roma, e non vorrei che adesso mio figlio venisse a strane idee su prime e seconde classi. Certo, quello credo che la vita del figlio di un calciatore non sia una vita proprio normale, No, beh, normale no. Perché mi ha detto Mattia, mio figlio, che da quando è arrivato in classe questo bambino, ed è arrivato da poco perché è un calciatore che è arrivato alla Roma recentemente. E si può dire chi è? Sì. Non si dà, preferisco di no, per il bimbo. Poi te lo scrivo su Twitter davanti a 50 va bene. Comunque, insomma, dice che gli chiedono in continuazione autografi. Io dico, scusate, ma gli autografi a lui o al papà? E questo non era molto chiaro. E quindi, insomma, praticamente questo bimbo già è il figlio di. Io spero veramente alla bimba di Balotelli che abbia l'infanzia della Serena. Glielo sì, auguro, ma no, perché, certo, questo certamente. Però... Però ecco, con una mamma così la vedo dura. Un po' di difficoltà in questo momento. Speriamo che recuperi in equilibrio. Speriamo. Caro Massimo De Manzoni, che cosa dobbiamo dire? Insomma, dobbiamo pregare per quella bambina, se siamo credenti, o cercare di sperare bene. Certo che però effettivamente è un po' così, è declassata, si può dire, tutti in prima classe, i figli dei calciatori, e questa bambina, insomma, avrà diritto anche lei ad andare in prima classe. Poi, ma prenderanno mai un treno i figli dei calciatori? La questione, questa è la vera domanda. Vabbè, vi lascio con questo, dovete fare un pronostico finale, che succederà? Il ministro più certo che c'è, Sarubi, chi sarà? Il ministro secondo te che certamente avremo? Mi hai fatto una domanda a tradimento, non lo so. Occhio delle lupi. Lupi? Vabbè, perché c'è già però uno nuovo, no? De Manzoni, tu uno che ci colpirà, no? Non so se ci colpirà dal punto di vista estetico, sicuramente la Maria Elena Boschi sarà della partita, praticamente Praticamente certa. Staremo a vedere oggi, forse alle 16 Letta va a dimettersi, forse nel senso l'orario, sicuramente va a dimettersi, forse alle 16 al Quirinale. Grazie intanto ad Andrea Sarubi e a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Ci troviamo la prossima volta. Tempo di Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. eccoci qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, forza, dai, oggi più che mai, dai, che è cambiata l'Italia, in 24 ore è cambiata l'Italia, poi è cambiato qualcosa, cambierà qualcosa, e beh, questo ce lo chiederemo certamente, ormai è abbastanza chiaro. Sarà il governo di Matteo Renzi, sì, come detto prima ci sono le consultazioni, tutto questo iter, questa procedura, ma il dato di fatto è che Matteo Renzi guiderà il prossimo governo a partire già dalla prossima settimana, via Letta, dentro Renzi, sostituzione. Cambierà qualcosa? Ce lo chiederemo. Che succederà? Avremo ospite alle 8:15 due esponenti, tre esponenti politici, Daniela Santanchè, il senatore di Forza Italia, il senatore Marcucci, Andrea Marcucci del PD renziano, e il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. Che succede ora? Intanto pensate, e ne parleremo anche con le vostre telefonate, 800 24 0024 il centralino, dalle 8 però è aperto, e cercheremo di capire appunto se va bene questo cambio o se, come dice lo stesso Renzi, sa benissimo il rischio di bruciarsi e cosa cambierà soprattutto per l'Italia. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo venerdì 14 febbraio chiaramente i titoli sono tutti declinati a questa situazione politica, non so neanche se definire crisi, beh certamente crisi nel senso che cambia un governo e quindi però se ne fa un altro. Il PD sceglie Renzi, Letta si dimette, bene l'asta BTP spread a quota 204, questo è il titolo del Sole 24 Ore che mette la notizia politica e la reazione dei mercati finanziari. Per il Corriere della Sera il PD affonda Letta e lancia Renzi premier. Repubblica, Letta si arrende, tocca a Renzi. La Stampa, Renzi sfila il governo a Letta. Il Messaggero, Letta lascia, c'è il governo Renzi. Il Fatto Quotidiano, ambizione smisurata, ma Renzi quanto dura? E qui iniziano i titoli con i dubbi. Il Giornale, Renzi si nomina premier. Libero, ora sono Renzi nostri. Il Secolo XIX mette una foto di Renzi in bicicletta, ma adesso pedala. Avvenire, Renzi ci prova, tutto o niente. Il Manifesto invece gioca sul Renzi Fonzi, Happy Days, titola con la foto di Renzi, mentre l'Unità, PD con Renzi, Letta se ne va. La notizia delle dimissioni, l'annuncio delle dimissioni dovrebbe arrivare, è arrivato ieri per comunicato, il preannuncio dovrebbe oggi dimettersi alle 16, Enrico Letta andare al Quirinale, oggi c'è l'ultimo consiglio dei ministri del suo governo, poi andare al Quirinale e poi giro di consultazioni rapide, forse in un giorno e tra sabato e domenica l'incarico presumibilmente, molto presumibilmente a Renzi, formazione del governo e voilà, forse settimana prossima, quando inizierà la 42esima settimana decisiva per la riforma elettorale, visto che si chiude oggi la 41esima settimana decisiva per la riforma elettorale, avremo un nuovo governo. E anche oggi la chiusura della 41esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Intanto il Sole 24 Ore mette a pagina 8 un dato, che è il dato da cui dovrà ripartire Renzi, uno dei dati. Riforme, 478 decreti nel guado. Sapete che il Sole 24 Ore da tempo ha posto acceso un faro su quelli che sono i decreti attuativi, che sono poi gli aspetti fondamentali per rendere dei decreti legge davvero funzionali. Al nuovo governo l'eredità dell'attuazione delle manovre Monti-Letta sono Antonello Cherchi e Marta Paris, che raccontano come la staffetta tra Letta e Renzi non sarà leggera. Nel passaggio di consegna ci sarà infatti il trasferimento di 478 provvedimenti ancora da adottare per completare le riforme per il rilancio dell'economia, di cui, di questi 478, 50 sono atti urgentissimi. La lista delle priorità è stata presentata all'ultimo Consiglio dei Ministri e tra l'altro viene riepilogata nel Sole ministero per ministero, dall'economia alle infrastrutture, all'istruzione, al lavoro, allo sviluppo economico, alla pubblica amministrazione, quelli che sono i decreti urgentissimi da convertire, 478 decreti nel guado. prima di parlare, tuffarci oggi sarà difficile, fare una rassegna stampa che spazi altrove rispetto a quella che è la situazione di governo, però vogliamo dare uno sguardo all'estero, alle altre notizie. All'estero colpisce, come abbiamo sentito nel giornale radio, è una decisione che sicuramente aprirà un dibattito anche mondiale, la decisione presa dal Belgio. In Belgio, il Belgio è il primo paese, è il secondo paese al mondo in cui è prevista l'eutanasia anche per i minorenni, ma è il primo paese al mondo nella quale c'è l'eutanasia per i bambini senza limite di età, al ribasso. È il primo paese al mondo e tutti ne parlano, Repubblica, Belgio, sia l'eutanasia per i bambini, Andrea Bonanni, primo paese al mondo a riconoscere anche ai bambini senza limiti minimi di età il diritto di ricorrere all'eutanasia, una decisione che ha spaccato ovviamente i partiti. Democristiani ed estrema destra fiamminga hanno votato contro, mentre con qualche rara eccezione socialisti, verdi, liberali e nazionalisti hanno votato a favore. Il provvedimento prevede che l'eutanasia possa essere somministrata esclusivamente su richiesta del minore, qualora si trovi in stato di malattia terminale di fronte a sofferenze fisiche intollerabili, dopo aver ottenuto il consenso dei genitori e dopo che uno psicologo ha confermato che il richiedente ha capacità di discernimento, il che in pratica esclude i bambini molto piccoli, ovviamente, perché la capacità di discernimento bisogna capire a che età arriva. Tutti i giornali dedicano una pagina, il Libero la mette così: la terribile legge belga, eutanasia sui bambini, Avvenire comprensibilmente si concentra dicendo è stata scavalcata pure l'Olanda, dove il vincolo resta a 12 anni, invece in Belgio hanno messo, tolto anche il vincolo dell'età. Il Belgio dice sì all'eutanasia sui bimbi, è il titolo di Avvenire, pagina 10, la via libera della Camera, con 86 voti a favore e 44 contrari, inascoltati gli appelli di religiosi e scienziati internazionali. Devo dire che sono unanimi le critiche, non ho trovato sui giornali dei commenti anche a favore. Angelo Mellone, per esempio, sul giornale a pagina 12, sotto il servizio Il Belgio, eutanasia anche per i bimbi, scrive nel suo commento dal titolo Un mondo che non ammette la sofferenza: chiamarla decisione shock è riduttivo. La scelta del Parlamento belga di legalizzare l'eutanasia per i minori di 18 anni è uno di quegli atti che genera la paralisi del giudizio. Cos'è, legalizzazione dell'infanticidio o diritto anche di un minore a finire il prima possibile una vita di sofferenze? Un ulteriore sdrucciolamento verso la barbarie o un gesto di civiltà? L'azzeramento del senso umano o la sua tutela? Sia quel che sia, il Belgio è la seconda nazione ad adottare un provvedimento così, la prima a non fissare un limite di età. Scatenerà polemiche e un dibattito mondiale. Solo in una democrazia nordica, un paese in cui il sentimento religioso aggrega minoranze e il potere ecclesiale non è centrale, sarebbe potuta accadere una cosa del genere. In effetti, si mette nelle mani di un minorenne malato terminale, purché dotato di propria volontà manifesta, il potere di decidere autonomamente sulla propria vita o sulla propria morte. Francamente, la prima sensazione che sale da una valutazione emotiva di quest'atto legislativo è di orrore. Immaginare ospedali dove, perché di questo si tratta, si accompagnano alla dolce morte bambini o adolescenti, lascia pensare più che altro al set di un film di fantascienza apocalittica e non a una nazione civile e occidentale. Ma finito il moto di disgusto, sorgono altre domande. Esiste in un individuo, anche in chi non ha raggiunto la maggiore età, il diritto di porre fine alla propria sofferenza e a una vita che in fondo non è vita? Può uno Stato impedire alla persona di non avere piena sovranità sul proprio corpo e la propria esistenza? Uno Stato può tollerare la legalizzazione del suicidio a ogni età? Insomma, queste sono le domande alle quali ovviamente Mellone non dà una risposta definitiva. Il dibattito è aperto, ognuno può avere la propria convinzione, ma è un commento che vi segnalo sul giornale Angelo Mellone. Riguardo invece un'altra vicenda che mi ha colpito, che riguarda molti professionisti, in questo caso gli avvocati, o direi meglio dire gli avogados, è una vicenda che ha portato molte polemiche e porterà sicuramente molte polemiche per tutte quelle persone che decidono di diventare avogados in Spagna, dove pare sia più facile passare l'esame di abilitazione professionale per poi fare un percorso, fare l'avvocato per un certo periodo in Spagna, poi arrivare in Italia, chiedere la registrazione come avvocato, credo stare 3 anni avvocato, e poi si diventa avvocati a tutti gli effetti, equiparati agli italiani. Bene, ora l'ordine degli avvocati comincia a arrabbiarsi, nel senso, da tempo c'è questa polemica, ma racconta Repubblica con Irene Maria Scalise a pagina 23, avvocati contro avogados, via dai nostri tribunali chi fa l'esame all'estero. Sono 4.000 ormai gli abilitati in Spagna, l'Ordine Nazionale degli Avvocati dice ora basta, c'è una causa a Macerata dove l'ordine professionale si è rifiutato di iscrivere 2 fratelli avogados che 3 mesi prima erano stati abilitati in Spagna, dicendo abbiamo preferito essere prudenti e ricorrere al silenzio assenso. Ai 2 fratelli non è rimasto che chiedere direttamente al Consiglio Nazionale e ora si pronuncerà un giudice, una sentenza che scrive Repubblica potrebbe riscrivere anche e creare un precedente per tutti gli stati membri. Il giudice dovrà decidere se questi 2 fratelli avogados hanno diritto di essere iscritti all'ordine degli avvocati italiani. E è una pagina interessante per tutti coloro che fanno questa professione, ve la segnalo su Repubblica a pagina 23. Va bene, noi ci fermiamo un attimo, ripartiremo dopo la pubblicità con la grande spazio dedicato alla politica. È davvero, questo si può dire, è stato un giorno decisivo, stavolta lo si può dire in maniera chiave, visto che Letta ha deciso di dimettersi e Renzi sarà molto presumibilmente il Presidente del Consiglio a partire dalla prossima settimana. Alle che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan, oh, sempre l'ascolto, Ma straordinario, il Gabibbo, ma è quello vero, Peter Bescabè, è venuto a trovarci, la voce del Gabibbo, ma posso mandare un abbraccio, tanto è grande, il Gabibbo che ascolta la sera stampa, vabbè, ma che volete di più dalla vita? Saluto anche Fabrizia che mi scrive, faccio jogging mentre ti ascolto in rassegna, altro che debosciati, Fabrizia, bene, bene, dai, aumentare con quelle gambe, su di giri, che c'è la maratona in arrivo. Allora, come detto, iniziamo la grande carrellata di articoli, non c'è giornale che non dedichi 10-15 pagine a questa svolta politica che ieri c'è stata, e cioè Letta che, dopo aver preso atto che il PD ha votato il documento per un cambio di passo al governo, 3 minuti dopo ha emesso una nota dicendo domani, prendendo atto di questo voto, vado da Giorgio Napolitano e rassegno le dimissioni. Renzi ieri si è presentato sempre in smart, non blu ma grigia questa volta, si è presentato a Roma. Io non ci credevo, mi sembrava una barzelletta, me l'hanno segnalato ieri su Twitter, ma oggi il Quotidiano Nazionale fa uno zoom sulla foto del parabrezza, ed è vero così, sopra l'assicurazione, il disco orario, c'è una scritta della concessionaria, evidentemente che gli ha dato la smart, e sapete come si chiama la concessionaria? Auto Zen. No, ma sembra una barzelletta, dopo che Letta ha detto sono zen, Renzi si è presentato su un'auto zen, una smart presa da Auto Zen a Roma, a Palazzo Chigi, vabbè. Al di là di questa simbologia che può far sorridere, cosa è successo ieri? Letta cede, dimissioni oggi al Colle, questo è il titolo di pagina 3, Barbara Fiammeri, la comunicazione ufficiale arrivata poco dopo la conclusione della direzione del PD. Letta fa sapere che oggi andrà al Quirinale per rassegnare le dimissioni, le ultime pratiche oggi nell'ultimo Consiglio dei Ministri che si terrà nella tarda mattinata, sarà preceduto da un vertice sul caso dei Marò e dal CIPE, sono le ultime pratiche, appunto, poi andrà a rassegnare le dimissioni presumibilmente attorno alle 16. L'ultima mediazione, racconta Il Sole, era stata tentata in mattinata dai 2 capogruppo, Luigi Zanda e Roberto Speranza, capogruppo del PD, e dal portavoce della segreteria di Renzi, Lorenzo Guerini. Colloquio breve con Letta, qualcuno sostiene che si sarebbe parlato anche di un'offerta per un ministero di peso, quello dell'economia, ipotesi seccamente smentita subito dopo, anche perché Letta dice a tutti non voglio nulla. Non so se con questo tono, ma il concetto è quello. Tra l'altro tutti i giornali raccontano con le loro firme più prestigiose la giornata di ieri. Aldo Cazzullo lo fa sul Corriere della Sera, pagina 2-3, inizia con questo racconto. Sa cosa ho fatto stasera? Prima di tornare a casa sono andato a comprare le figurine panini ai miei figli, un'abitudine che avevo interrotto. Le figurine dei calciatori sono per me il ritorno alla normalità. Così Enrico Letta esce di scena e cede il posto al rivale. E poi il racconto della giornata, la resa di San Valentino, così Renzi ha sfiduciato Letta, la cronaca di una giornata già scritta. Di fronte agli emissari del partito il premier si rifiuta di lasciare, appunto di fronte a Zanda e Speranza, poi la lettera, nessuna tragedia, non sarà una caduta pubblica. E poi nel racconto della giornata di tutti gli interventi in direzione, il discorso di Renzi che dice è vero, c'è il rischio che mi bruci, ma chi, qual è il politico che non rischia? E poi ancora Renzi che ammette, si parla di ambizione smisurata mia e del PD, non smentisco questa cosa, l'ambizione di guidare il paese. A un certo punto Aldo Cazzullo ricorda anche l'oscuro membro della direzione Paolo Cosseddu, che cita lo scambio a cui pensano un po' tutti. I parlamentari abbandonano Letta per Renzi per evitare di andare a casa col voto anticipato. E la conclusione dell'articolo di Cazzullo, che ricorda l'inizio sulle figurine panini che Enrico Letta va a comprare per i figli come simbolo di un ritorno alla normalità, scrive Cazzullo: quanto alle figurine, i renziani raccontano che Matteo si è già fatto mandare 2 settimane fa l'album completo dalla Panini. Ecco, anche questa, come dire, metafora ben contrastante fa capire la velocità con cui si muove Matteo Renzi. E qualcuno scrive molto brutalmente anche il rischio con cui possa andare a bruciarsi. Per esempio Massimo Franco, in prima pagina del Corriere della Sera, titola il suo editoriale «Un passaggio opaco». Intanto questo passaggio sprigiona instabilità, scaricando sull'Italia le sue faide interne. Passa in pochi giorni dagli applausi a Enrico Letta a un ruvido ben servito, di fatto opaco. Non basta andare in streaming, in stile il grillino, a mandare i lavori della direzione del PD. Ci sarà tempo per rivedere la liquidazione di un governo nato tra mille difficoltà e boicottato proprio da chi doveva sostenerlo. Né basta la constatazione che soprattutto nell'ultimo periodo il premier apparisse esitante. Forse lo era anche perché avvertiva l'ostilità del suo partito. Ma presto si vedrà se la scossa promessa da Renzi, successore in pectore, ci sarà davvero, pur restando affidata alla maggioranza di prima, tanto bistrattata, con l'ipotesi di aggiungere schegge del SEL di Vendola. Insomma, Renzi ha detto rischiamo grosso, ci giochiamo tutto, lo sa. Ora il sindaco deve trattare con gli alleati, scrive Alessandro Trocino a pagina 5 del Corriere. Questa non è una staffetta, passiamo dalla continuazione di una certa storia di governo tecnico a un governo politico. Così ha detto Goffredo Bettini. Ma Renzi, dopo la veloce direzione e il voto di ieri, ha detto ai suoi: andiamo, dobbiamo sbrigarci, nessun brindisi, ora dobbiamo prendere in mano il paese. Questa è la situazione anche per Federico Geremicca. Sulla Stampa la pone così: l'alieno alla prova del 9, è un dovere il cambio radicale. Certo, dall'altra parte c'è l'addio di Letta, che è stato molto compassato fino a questo momento, ma raccontano nei retroscena della politica anche condito con una certa dose di amarezza. Racconta per esempio il retroscena di Francesco Bei e Alberto D'Argenio su Repubblica, l'ultima giornata di Letta, un addio amaro. Ha detto così ai suoi: i farisei mi hanno sfiduciato, ma non accetterò strapuntini. Sono dei farisei, mi ringraziano e poi mi chiedono di lasciare la presidenza del Consiglio dei Ministri. Enrico Letta non perde la calma, nemmeno nel giorno in cui il suo stesso partito lo sfiducia per spalancare le porte di Palazzo Chigi a Matteo Renzi. Amarezza, sì. Rabbia, racconta chi lo ha visto ieri, no. Io resto un uomo delle istituzioni, non sarebbe dignitoso accettare un qualche strapuntino. Anche alle 7:30, quando si presenta a Palazzo Chigi al mattino e arrivano Zanda, Speranza e Guerini, come racconta il Sole 24 Ore, che gli dicono di dimettersi, lui dice no, serve chiarezza, la gelida risposta, come dire, prima voglio vedere come vota il partito. E poi appunto questo accenno dei farisei. Secondo il Fatto Quotidiano addirittura sarebbe spinto oltre, accompagnando alla porta Zanda, Speranza e Guerini, che lo hanno ricevuto al mattino dicendo dimettiti prima del voto del partito, Letta li avrebbe accompagnati alla porta dicendo e sibilando un filibustieri. Accompagnato alla porta, Letta sbotta, filibustieri. Questo è il titolo di pagina 5 del Fatto Quotidiano. E poi c'è l'amarezza e anche, come dire, il messaggio secondo il Secolo XIX nella retroscena di Giovanni Palombo a pagina 5, lanciato da Letta, che suona un po' così: Matteo è ossessionato dal potere, ha dimostrato ancora una volta il suo cinismo, la verità è che ha sempre voluto la mia poltrona dal primo momento, io non farò la fronda, ma lui dura poco. E qui si apre l'altro fronte, che è un fronte dibattuto da decenni e forse lo sarà anche nell'immediato futuro, cioè del partito di sinistra, i partiti di sinistra, del PD in particolare in questo caso, abituato, come dire, a fare la guerra interna al leader di turno per logorarlo. È successo con Veltroni, è successo con Franceschini, è successo ora con Letta, non leader del PD ma premier, succederà anche con Renzi, questo è quello che si chiedono anche molti giornalisti. Anche sul Messaggero, Letta si dimette, accusa, mi ringraziano, sono dei farisei. La telefonata chiave è stata quella con il Colle, con Napolitano. Impazza il Toto Ministri, ormai si sa il premier in pectore, ma sarà Matteo Renzi, lo sarà di fatto settimana prossima. 12 ministri, 4 donne, questo è il titolo dell'Unità. Si fanno i nomi di Lucrezia Reichlin all'economia, si fa il nome sempre di Andrea Guerra, amministratore delegato di Luxottica per Repubblica, è dato abbastanza certo allo sviluppo economico. La conferma agli esteri di Emma Bonino, si parla per il Ministero della Giustizia di Michele Vietti del CSM, ma sull'Unità rispunta anche Paola Severino, che lo è stata nel governo Monti. Si parla di Stefania Giannini, segretaria di Scelta Civica all'Istruzione. Un posto sicuro viene dato a Graziano Del Rio, attuale ministro agli affari regionali, che dovrebbe fare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, cioè il Gianni Letta di Berlusconi dovrebbe essere Graziano Del Rio per Matteo Renzi. Si parla sempre di Lorenzo Binismaghi come possibile all'economia o insieme a Lucrezia Reichlin, si parla di Tito Boeri, economista e editorialista di Repubblica, anche animatore della voce.info per Ministero del Lavoro. Insomma, questi sono i nomi che circolano, abbastanza sicura anche l'ipotesi di Maria Elena Boschi, deputata renziana. Staremo a vedere. Intanto Repubblica va anche a ascoltare la famiglia. Massimo Vanni va a casa della moglie, che dice la moglie Agnese: Matteo ha scelto, non ci sono recriminazioni, ieri l'ho sentito solo un minuto poco prima del suo intervento alla direzione del PD, io First Lady non lo sono e mai lo sarò. Mentre il padre chiude con i cronisti: rispetto voi ma anche la mia privacy, d'ora in poi, dice il padre di Renzi, per voi non esisto. Alessandro, Milan, Milan, sempre con te. E vabbè, si sa, vabbè, toccava prima o poi, Va bene, alle 7.47 minuti, devo dire, ci sono tantissimi messaggi che chiedono già di approfondire il tema che approfondiremo alle 8.15, che è questo. Per esempio un ascoltatore ci scrive: io non ho capito, ma perché non si è passati attraverso la solita sfiducia? E poi Renzi chiederà la fiducia? Ma certo che chiederà la fiducia, ma poi, parliamoci chiaro, caro ascoltatore, in questo momento Renzi non è il Presidente del Consiglio. Cioè adesso c'è la procedura, Letta si dimette, Napolitano fa le consultazioni con i partiti, poi darà l'incarico a uno di formare un nuovo governo. Indovinate chi sarà questo uno a cui darà l'incarico? È chiaro che è già ovvio, darà l'incarico a Matteo Renzi. Matteo Renzi farà il governo, lo presenterà, poi si presenterà al Parlamento e chiederà la fiducia. Cioè non è che da questo punto di vista cambia la procedura. Dico invece a Maurizia, che mi scrive un SMS, non è che posso rispondere pubblicamente, se mi manda una mail a alessandro.milan radio24.it, cara Maurizia, ti risponderò certamente. Dopodiché, allora, cosa continua? Come si può continuare la questione politica? Beh, Forza Italia guarda con discrezione e attenzione. Intanto tutti i giornali, il Fatto la mette così: un pregiudicato al Quirinale. Il Giornale invece la mette con Adalberto Signore come sfida, il Cavaliere sfida il Colle, guiderò Forza Italia alle consultazioni. Ma certo, dopo le tensioni sulla decadenza, dopo le accuse di golpe, dopo la condanna, si può aggiungere Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia al Quirinale. Berlusconi è pronto a dare una mano a Renzi, invece la vede così il quotidiano Libero, mentre attenzione anche al Movimento 5 Stelle. Ci sono due interviste un po' fotocopia a Gianroberto Casaleggio, intervistato da Repubblica, da Tommaso Ciriaco e da Andrea Malaguti sulla Stampa. D'altronde ieri Casaleggio si è presentato in Parlamento, giudica la staffetta: il Parlamento è sovrano. Questa è la premessa, dice Casaleggio, è lì che bisogna decidere tutto. Per noi le crisi si risolvono in Parlamento con una legittima decisione dei parlamentari. Sulla fiducia, per Napolitano le urne sarebbero una sciocchezza, come se ne esce? Le rispondo con una battuta, dice Casaleggio, per me la sciocchezza sarebbe non tornare alle elezioni. Ma dicono che gli oppositori che Renzi è stato arrogante. Non entro nel merito, risponde Casaleggio, dei problemi del PD, ne faccio una questione di metodo. La sovranità appartiene al Parlamento e non ai partiti. Noi non dobbiamo pensare a discutere delle nostre eventuali valutazioni, ma di quello che è utile all'Italia. E sui parlamentari a disagio all'interno del Movimento 5 Stelle dice: penso che nei nostri gruppi ci sia diritto di voce, ciascuno può esprimere le proprie opinioni, noi non siamo un gruppo che impone una sola voce, anzi è normale che un gruppo parlamentare abbastanza composito ci siano in un gruppo parlamentare composito voci dissonanti, sarebbe molto strano il contrario. Dunque, così Casaleggio ha molto ammorbidito almeno le dichiarazioni pubbliche. In tutto questo, vabbè, c'è spazio per altre cose sui giornali, sì, tanto ripartiamo dalle 8:15 dal filo rosso della crisi. Vi segnalo, due pagine del Sole 24 Ore sulla cosiddetta marcia virtuale dei 40.000. Ieri c'è stata la riunione, la protesta delle imprese, la questione industriale al centro, con l'incontro ieri a Torino con le imprese che dicono: vogliamo solo lavorare. Si ricorda ovviamente dalla marcia famosa dei quadri della Fiat del 14 ottobre 1980, dopo 30 giorni di picchettaggi. Ieri è partita insomma invece la marcia virtuale dei 40.000, virtuale perché Licia Mattioli, imprenditore del settore orafo, presidente dell'Unione Industriale di Torino, ha detto è un'iniziativa tranquilla, nel senso che le imprese chiedono solo di poter lavorare. Due pagine le trovate sul Sole 24 Ore, pagina 4 e 5, sulle rivendicazioni a partire dal fisco leggero per ripartire, le rivendicazioni per rilanciarsi, anche perché, come scrive nel commento Paolo Bricco, la questione industriale è anche riassunta in questa cifra impressionante: in 5 anni sono stati bruciati 134 miliardi, il rischio desertificazione industriale dal 2008. Il sistema produttivo italiano ha lasciato sul terreno ricavi aggregati per 134 miliardi di euro. Ha iniziato a sperimentare una preoccupante tensione finanziaria, soprattutto ha perso capacità di generare ricchezza. Prima della crisi 100 euro di ricavi producevano 2 euro di utili, puliti. 5 anni dopo, anche a causa di un fisco che con la sua componente fissa, la famigerata IRAP, amplifica la sua capacità distruttiva, 100 euro di fatturato generano 50 centesimi di utili. Dunque da 2 euro a 50 centesimi di utili. Così Paolo Bricco, in prima pagina del Sole 24 Ore. Uno spunto di cronaca prima della conclusione: a Repubblica nasce la prima piscina con spogliatoi separati. E perché? Non maschi e femmine, ma all'interno delle femmine le donne musulmane. Avviene in zona via Padova, che è un po' considerata la Kashba, insomma, dove c'è una grande presenza di un alto tasso di immigrati. La prima piscina la piscina comunale di via Cambini, zona via Padova, ha dei separé all'interno degli spogliatoi femminili per le donne musulmane, che dicono non possiamo mostrarci tutte nude neanche ad altre donne. E siamo al momento conclusivo. Oggi la carta costa è sempre all'interno di questa vicenda politica. Dicevo, tante pagine, tante paginate. C'è anche Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera, una mezza pagina dedicata al parrucchiere di Renzi. Sì. Antonio Toni Salvi, nato a Teano in provincia di Caserta, 74 anni, quelle riunioni di Matteo nel solarium sul retro, viene due volte a settimana per un ritocco alla sfumatura, una manicure o giusto per un caffè, la barba no. Se la fa da solo, arriva in bici. E poi gli ho tolto il ciuffo, sempre spettinato. Ora li porta più corti, pratici, testa classica, basetta lunga. Sta bene, no? Lo fanno sembrare più atletico, ma vi rendete conto? Il parrucchiere di Renzi! Va bene tutto, va bene le agiografie, ma il parrucchiere di Renzi, no! Sul Corriere della Sera, la carta costa... Mattino. Siamo qui, sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e allora ripartiamo da ieri. La direzione del Partito Democratico, esaminata la situazione politica e gli sviluppi recenti, ringrazia il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, per il notevole lavoro svolto alla guida del governo, un esecutivo di servizio che ricordiamo è nato in un momento delicato dal punto di vista politico, economico e sociale. Rileva la necessità e l'urgenza di aprire una fase nuova, con un esecutivo nuovo che si ponga l'orizzonte naturale della legislatura, da condividere con l'attuale coalizione di governo e con un programma aperto alle istanze rappresentate dalle forze sociali ed economiche. Se l'Italia chiede un cambiamento radicale, o questo cambiamento lo esprime il PD, o non lo farà nessuno. Vi chiedo tutti insieme di uscire dalla palude. Di uscire dalla palude. Dunque il dado è tratto. Matteo Renzi ieri ha chiesto che il PD votasse, e la direzione ha votato per il cambio di passo. Vuol dire che Enrico Letta, cari italiani, ormai lo sapete, oggi andrà a rassegnare le dimissioni al capo dello Stato Giorgio Napolitano. Allora io vi chiederò, a voi ascoltatori, chiederò una cosa molto semplice. Telefonate all'800 24 0024. La domanda semplice che faccio è: Matteo Renzi, secondo voi, fa bene a prendere in mano le redini del paese, perché così succederà, oppure rischia di bruciarsi, come lui stesso sa benissimo di correre come rischio, e lo ha anche detto. E poi l'altra domanda, se volete, è un bene per l'Italia oppure non vedete questo grande cambiamento? Cioè cambia il governo, cambia il premier, ma cambia davvero qualcosa per l'Italia? Chiaramente poi questo è tutto all'interno di un percorso istituzionale che ci sarà, le dimissioni, Napolitano che farà le consultazioni, ascolterà i partiti, ognuno farà le proprie proposte, il Napolitano poi deciderà, ma è tutto abbastanza scritto, quando ha detto due giorni fa sono sciocchezze le elezioni, vuol dire che incaricherà al 99,9% Matteo Renzi di formare il nuovo governo. L'analisi politica la vogliamo fare oggi con Daniela Santanchè, che saluto, buongiorno, di Forza buongiorno. Italia, benvenuta, così come saluto il senatore Andrea Marcucci del PD, buongiorno, Presidente della Commissione Istruzione e Cultura, e renziano, ecco, così, anche se adesso siete tutti renziani all'interno del PD, o no Marcucci? Diciamo che mi poteva presentare come sufficiente, era dire senatore del Partito Democratico. Senatore del Partito Democratico. Va bene, allora intanto partiamo da questo. Sa che oggi sui giornali il senatore Letta pare abbia definito farisei tutti coloro che lo hanno ringraziato, evidentemente a cominciare da Matteo Renzi. Mi ringraziano, ma mi sfiduciano da Palazzo Chigi. Io sono tra quelli che in realtà lo ringrazio. Come Presidente della Commissione Cultura mi sono avuto l'onore di essere relatore del decreto Valore Cultura, poi diventata legge col Ministro Brai. Riconosco al Governo Letta di aver lavorato per riportare la cultura al centro dell'attenzione dell'azione di governo. Quindi il mio ringraziamento è sincero per l'attività svolta, e anche la mia collaborazione è stata fattiva. E allora perché bisogna cambiare? Voglio dire, per gli eventi mi sembrano chiari, anche di fronte, diciamo, alle questioni che il paese ha davanti e che, alle quali negli ultimi mesi questo governo, questa maggioranza, in particolare, diciamo, dopo la modifica dell'assetto della maggioranza, non è più stato in grado di dare delle risposte adeguate, voglio dire, da un'autorevolezza che è venuta a mancare, da un rilancio del programma, da una forte critica delle parti sociali e dei sindacati, intesi anche come sindacati delle imprese, a tutto quello che sarebbe dovuto succedere e che non è successo. Le chiedo, senatore, già vede, gli ascoltatori pongono questo problema, qualcuno mi chiede, sarebbe il terzo governo non eletto, non scelto direttamente dai cittadini? Un altro ascoltatore chiede, ma il popolo sovrano che fine ha fatto? Lei è di quelli che dice, come Giorgio Napolitano, le elezioni anticipate sarebbero una sciocchezza in questo momento? Ma guardi, mi sembra molto chiaro che saremmo dovuti andare alle elezioni anticipate con un sistema elettorale degnissimo, perché il sistema proporzionale puro è degnissimo, ma che non rispondeva alle esigenze del nostro paese. Noi saremmo andati alle elezioni, forse il Partito Democratico avrebbe avuto un buon risultato, forse l'avrebbe avuto Forza Italia, forse il movimento guidato da Grillo, ma certamente nessuno dei grandi partiti o delle grandi coalizioni avrebbe raggiunto il 51% dei voti, quindi nessuno si sarebbe riproposta la stessa situazione, che saranno indicati, certo, dagli elettori alle prossime elezioni, sarebbe andata a guidare il governo, quindi la risposta di fatto è in queste questioni. Oggi invece abbiamo la possibilità di trasformare, mi auguro tutti insieme, anche con la collaborazione, diciamo, parlamentare di Forza Italia, questa legislatura in una legislatura costituente e completare le riforme sulle quali, voglio dire, già una Vediamo, insomma, è un esponente di Forza Italia, l'abbiamo qui, l'onorevole Daniela Santanchè. Certo, è un po' singolare il fatto che, siccome la politica non è riuscita a fare la legge elettorale, che io ricordo questa legislatura è la 41esima settimana decisiva, come io dico ironicamente, della riforma elettorale, siccome non si è riusciti a farla, e allora non si può andare a votare. Ma chi la doveva fare? Non certo gli italiani, ma il Parlamento. Comunque, onorevole Santanchè, intanto la posizione di Forza Italia, se ce la può anticipare, se è già stata delineata per le consultazioni imminenti, penso già domani o forse oggi stesso con Giorgio Napolitano, quale sarà? Ma guardi, noi siamo all'opposizione. Berlusconi ha fatto un patto con Renzi per tutto ciò che riguarda le riforme, la legge elettorale, il titolo quinto, l'abolizione del Senato. Noi siamo persone che vogliamo mantenere la parola data, perché ci rendiamo conto che se anche gli italiani non mangiano con la legge elettorale, dobbiamo farla. Ovvio, mi dispiace che mi sembra già che non ci sia più questa urgenza sulla legge elettorale. Questa settimana noi avremmo dovuto votare la legge elettorale per quanto riguarda la Camera e finire il provvedimento perché potesse passare al Senato, ma mi sembra già che ci sia un'area così di slittamento, di spostamento. Beh, questa settimana è un po' anomala forse, no? Ma vedrà che anche la prossima non la faremo, poi magari ne passerà un'altra, e quindi, voglio dire, vedo già un rallentamento in tutto quello che dovevamo fare. La nostra posizione è l'opposizione al governo che nascerà, come ormai sappiamo tutti, un'opposizione patriottica, nel senso, come ha detto il presidente Berlusconi, no? Un'opposizione patriottica, perché saremo maggioranza quando si tratterà di riforme e saremo opposizione per quei provvedimenti che non crediamo siano utili per il paese. Quindi riforme sì, dal tavolo delle riforme comunque non ve ne andate e continuate su questa strada. Ma sarebbe assolutamente sbagliato andarci. Il presidente Berlusconi con Matteo Renzi hanno firmato un patto, quel patto deve essere portato fino in fondo. Poi c'è il dispiacere da italiana, perché Renzi, io dico, noi politici dovremmo cominciare a dar seguito alle parole e alle cose che diciamo. Renzi ha fatto una campagna elettorale per le primarie dove aveva due pilastri. Il primo pilastro era mai più larghe intese, il secondo pilastro era mai più un presidente del Consiglio che non sia eletto e non abbia la legittimazione dal popolo. Oggi Matteo Renzi si presta ad andare da nominato, che è la cosa che dà più fastidio agli italiani. Abbiamo letto fiumi di parole, sentito, sì. Cioè agli italiani nominati non piacciono. Non piacciono, però secondo lei... La quindi... premessa, scusi, sì. Ha detto Matteo Renzi, se si brucia Matteo Renzi. Ma il problema non è se si brucia Matteo Renzi, il problema è se si brucia l'Italia. Beh, no, ma infatti io ho messo le due cose, diciamo. C'è l'aspetto personale, perché in politica contano anche... Sicuramente si gioca anche una sua partita. È l'uomo più nuovo della politica, certamente, degli ultimi tempi. Beh, insomma, e quindi... nuovo nel senso, nuovo da che punto di vista? Ha fatto il presidente della provincia di Firenze, ha fatto il sindaco. E qual è secondo lei, allora, l'uomo o la donna più nuova della politica che può fare il leader? A me non interessa il nuovo, perché, vede, io trovo che tutto quello che si sta consumando in queste ore, in questi giorni, è la cosa più vecchia del vecchio. Siamo ritornati a quei riti della prima Repubblica, a quel modo di essere, che poi lei, se mi dice che c'è del nuovo, io rispetto qualsiasi posizione. Ma onestamente io trovo che questa sia la politica più vecchia della però vecchia mi dica Forza Italia vorrebbe, cioè, se ce lo può, ripeto, anticipare, cioè, cosa chiederà a Napolitano? Chiederà di andare a votare con questo sistema elettorale, che oppure cosa chiederà? Ma guarda, cosa chiederà nelle consultazioni ancora non lo so, perché non c'è stata una riunione in tal senso con il nostro movimento politico. E allora mi dica la sua leader. Posizione personale. Però la mia posizione, credo che noi avremmo voluto andare a votare. Noi troviamo che la via maestra sarebbe stato il voto, come ci chiedono e come chiedono, mi sembra, gli italiani. Ho visto l'altro giorno un sondaggio dove l'80% degli italiani era contrario a un governo Renzi, non perché c'è qualcosa contro Renzi, ma perché c'è qualcosa contro il metodo di fare. Perché poi io le dico onestamente, a me Renzi, da italiana lo dico, non da appartenente al movimento politico Forza Italia, io dentro di me mi piacerebbe che chiunque sia facesse qualcosa per questo paese, perché nella vita faccio un imprenditore e tutti i giorni sento la crisi che morde e fa male. Certo, ma lei Renzi stava dicendo in fondo un po' piace? In fondo un po' piace Renzi? No, guardi, c'è una novità, l'unica novità che c'è in questa fase è che non c'è il nemico, c'è l'avversario, che io trovo che sia già una differenza sostanziale. Ah, cioè Renzi considera Berlusconi l'avversario? No, io non dico che Renzi considera Berlusconi, io sto dicendo io che non percepisco più il nemico, percepisco un avversario politico. E questo è già una novità. È per questo che mi sarebbe piaciuto poter andare a votare, perché gli avversari si confrontano, no? E poi è chiaro. Però su questo, senatore Marcucci, vuol prendere, diciamo, l'aspetto positivo per il Partito Democratico, le parole della Santanchè, nel senso che lei all'inizio ci ha detto speriamo che si continui sull'ambito delle riforme, e Daniela Santanchè dice non sarebbe serio da parte nostra abbandonare quel patto, però sul resto dice sarebbe meglio andare a votare per confrontarsi da avversari alla pari. Non c'è qualcosa di vecchio effettivamente in questo passaggio di testimone, Marcucci? Ma guardi, non mi sembra così. Allora, intanto Matteo Renzi non è nominato, non è eletto parlamentare, ha avuto un processo per l'elezione da segretario del partito molto lungo, complesso, aperto, combattuto e democratico, e la riunione di ieri l'ha presieduta come segretario, diciamo, che è uscito dalla competizione delle primarie, quindi nominato, non capisco a quale fosse il riferimento in realtà. E sarà il premier nominato, nel senso... È nominato, il premier è sempre nominato, dice la Costituzione, nominato il Presidente della Repubblica, quindi nominato... Cioè non eletto, non si è presentato agli elettori con una votazione dicendo il nostro candidato premier, come fu con Bersani alle ultime, sarà Matteo Renzi, questo. Questo però, ahimè, in questa legislatura è frutto della bruttissima legge elettorale che... fu voluta da Forza Italia e dalla Lega, e è frutto della situazione di un quadro politico che si è modificato. Io credo che il gesto di ieri da parte di Matteo Renzi e anche di tutto il Partito Democratico, che compattamente lo ha sostenuto, sia di grandissimo coraggio, prendendosi dei rischi e facendo una scommessa nell'interesse del Paese. Se lui riuscirà, se noi riusciremo, se il Paese riuscirà a lavorare in questa direzione, avremo un paese più normale, con una legge elettorale migliore, con un sistema istituzionale più semplice, sì, che sì, permetterà alla politica di decidere e al governo di governare. Credo che in qualche maniera sono cose che credo il presidente Berlusconi e il segretario Renzi siano detti, ma sicuramente apprezzo che Forza Italia sul fronte delle riforme non abbandoni il tavolo, non abbandoni il tavolo. Allora facciamo così, ripartiamo dalla pubblicità, dopo la pubblicità con Daniela Santanchè, con Andrea Marcucci, c'è anche l'aspetto che viene posto oggi sui giornali con polemica, per esempio dal Fatto Quotidiano, ma come un pregiudicato al Quirinale, perché Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia, così almeno sembra capire, il giornale la mette così, la provocazione, la sfida di Berlusconi che si presenta a Napolitano. Avremo ospite anche l'8 e 45 il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. State con noi. 24 mattino. No, qui ci vorrebbe un cinturone di quelli per farsi esplodere, perché non c'è razionalità in questa vicenda, non c'è serietà. Abbiamo dato uno spettacolo terribile. Ora mi dicono che Letta non ci sarà, quindi insomma, archiviata la fase Letta, inizia l'era Renzi. Secondo me è sotto una stella brutta, non c'è motivo, ma è così. È così, era la voce di Pippo Civati, la vera voce dissacrante ieri all'interno del PD, in un coro più o meno unico, ma insomma avete sentito invece Pippo Civati dire assolutamente sbagliato. Allora siamo con Daniela Santanchè e con Andrea Marcucci, Daniela Santanchè di Forza Italia, Andrea Marcucci del PD. Sentiamo un paio di ascoltatori e poi torno da voi. Giacomo da Bologna. Giacomo, che pensa lei? Buongiorno, cercherò di essere breve. Il discorso è molto semplice. Io sono un elettore, visto che tutti quanti parlano del fatto che bisogna ascoltare gli elettori, direi che sia il caso che incominciamo a parlare seriamente. Sappiamo tutti quanti che con la vecchia legge elettorale e con quello che ci ritroviamo ora, la situazione in Parlamento, in un futuro governo, sarebbe comunque alleanza con piccolo partiti, sì, o comunque di nuovo larghe intese. Quindi di cosa stiamo parlando? Nel senso, è logico che Renzi è effettivamente l'unica persona in questi mesi che ha cercato di dare una scossa, perché Letta presenta martedì un programma per l'Italia e io mi chiedo perché presentarlo martedì di questa settimana. Le idee erano quelle. È un po' fuori tempo, lei dice. Ma quindi lei, Giacomo, vede bene, è tutto bene, può continuare Renzi? Ma non è questione che sia, cioè, non è questione che sia tutto quanto bene. Io ho 28 anni e è logico che guardo il mio futuro e vedo persone che hanno 40-50 anni che mi raccontano c'è da aspettare, c'è da seguire le procedure, c'è da fare tutta una serie di cose. Qua o si cambiano le cose, si cambiano velocemente, ma senza insulti o cose di oppure questo no. tipo, con razionalità. E lei, la domanda che le faccio è, lei vede in Renzi la persona che può fare questo? Questa è la domanda chiave. Io dico che Renzi sta chiedendo la sua possibilità di governare, come Silvio Berlusconi, la signora Santanchè lo sa bene, l'ha chiesta per 20 anni e non è riuscita a cambiare le cose, come l'ha fatto Prodi prima, come l'ha fatto Letta, come l'ha fatto Monti. La domanda, Giacomo, che è una delle domande che ci stiamo ponendo, è che lei ha detto Silvio Berlusconi lo ha chiesto agli elettori e invece Renzi non passa attraverso una legittimazione popolare se non quella delle primarie. Lei ha perfettamente ragione. La mia risposta è che Silvio Berlusconi in 20 anni ha fatto soltanto una cosa bene: la campagna elettorale. Io l'ho visto da Santoro l'anno scorso ed è stato spettacolare. Li ha messi tutti quanti a tacere. Ma poi non è stato in grado di loro posto. Cioè, io non posso darla a me. Io ho lavorato con contratti a tempo determinato. Sì. Cioè, non è che potevo arrivare dopo 3 mesi o 6 mesi e dire scusate, i 5 mesi precedenti ho fatto male. L'ultimo mese mi sono impegnato per il rinnovo, mi rinnovate comunque. Va bene, insomma, Berlusconi ha visto buone campagne elettorali ma non buon governo. Grazie Giacomo. Andrea Novara da Federico. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno a tutti. Ma io credo che insomma nessuno ha la bacchetta magica, nel senso, se Renzi si propone e ha veramente la verità in tasca sarà sicuramente una grande novità. Altrimenti, insomma, adesso la verità in tasca altrimenti rischia di essere, diciamo, un Letta bis e di bruciarsi comunque in poco tempo. Quindi lei vede questo rischio, il rischio che anche lo stesso Renzi ha ammesso di bruciarsi, lo vede? È un grosso rischio e poi comunque lui fino all'altro giorno l'ha detto, ha guadagnato la segreteria del partito, ha fatto grandi cose, Valesco rischia di volere tutto e subito, e come spesso accade, tutto e subito non si può ottenere. Va bene, ma questo, insomma, chi vivrà vedrà, ecco, è questo certo il senso del rischio che pone politicamente parlando per lui, e poi c'è il rischio per l'Italia, ovviamente, come ha detto l'onorevole Santanchè, a cui chiedo allora la questione di Berlusconi al Quirinale. È così, andrà Berlusconi e non ci sono problemi, il Fatto titola un pregiudicato al Quirinale. Ma non credo quale sia il problema o perché non dovrebbe andare il nostro leader. Il presidente Berlusconi è il leader di Forza Italia, del nostro movimento politico, e mi sembra che sia la persona che possa esprimere nella maniera più giusta e migliore a Napolitano le posizioni del nostro movimento. Ma qualche attrito c'è stato? Che farà Berlusconi? Gli dirà fatto il complotto lei presidente nel 2011? No. Non credo, perché Berlusconi è persona che insomma sa stare nelle situazioni, va al Quirinale su una questione politica, anche se dovremmo insieme dire che l'irritualità di questa crisi, una crisi extraparlamentare, non si vedono passaggi nel Parlamento, anche questo potremmo discutere, ma non vorrei soffermarmi su questo, vorrei invece dire che bisogna guardare in faccia la verità e la realtà, perché adesso sentirmi dire che non è vero che Renzi sarà nominato mi sembra che non sia questa la strada migliore, sentirmi dire che Renzi potrà camminare e deve provarci, sì sì, va benissimo, però siamo consapevoli che cambia un uomo, perché la maggioranza è la stessa, parte dei ministri sono gli stessi. Ma lei non crede che, non crede che in politica esista anche quella che viene chiamata l'energia cinetica, cioè il fatto che Renzi, se non altro no, sulle riforme, sulla legge elettorale, ha imposto un timing, poi ora si è rallentato, che però non ci fosse stato Renzi, un po' nella palude eravamo, uso la sua espressione. Io guardi, l'energia è una cosa che non credevo facesse parte della politica, poi sa, cambia tutto, prendo atto di questa novità, e l'imprinting che ha dato, ah sì, perché ha trovato una persona come il presidente Berlusconi che si è fatto questo accordo in tempi rapidi, che poi lei sia così convinto che questa energia sfocherà, che noi tra due o tre giorni o quattro abbiamo la legge elettorale. Ah no, no, no, io, no, da su questo punto di guardi, vista, parla con uno che conta le settimane decisive che passano, e siamo a 41 per l'appunto. Non, su ma questo, secondo me ne passano anche 51, 61. Non lo so, 71. Io posso solo contarle da cronista e diciamo da informatore. Senatore Marcucci, però, un po' nel concludere anche questa chiacchierata, non posso ritornare a quello che dicevo all'inizio, cioè i giornali leggerà lei, al di là del fatto che Letta è una persona per bene, educata, anche nei modi, tutti sottolineano, ma insomma c'è questo accusa di fariseismo, cioè mi hanno tradito farisei, addirittura secondo il Fatto Quotidiano, accogliendo Zanda e Speranza, che sono andati a provare a convincerlo a dimettersi prima della direzione e accompagnandoli alla porta, ha sibilato anche un filibustieri. Insomma, non può raccontarci che all'interno del partito del PD sia tutto a posto e andiamo avanti. Senatore, avete consumato l'ennesimo omicidio interno? Politico. Ma vede, intanto che gli uomini cambiano anche le situazioni, lo dimostra il fatto che con le ultime primarie, grazie a Matteo Renzi, secondo me si è profondamente trasformato anche il Partito Democratico, e quindi questo può avvenire anche a livello nazionale nel governo del Paese. Su questa questione, ma sono stato chiaro molto prima, Letta non è stato neanche lui eletto, diciamo, dalle elezioni, indicato da una coalizione successivamente per esigenze esattamente con la stessa logica, però che ha una visione diversa sia nei tempi di realizzazione sia nelle cose da fare. Oggi è Renzi che va a fare questa scommessa. Non credo che sia una questione di tradimento nei confronti di Letta, credo che sia una questione di onestà nei confronti del Paese. Oggi ci voleva un governo che avesse le condizioni politiche per fare bene e fare anche velocemente. Sì, quindi non ci sono farisei, non ci sono farisei. Per affrontare le emergenze. Però mi scusi, se l'ha detto, se Letta l'ha detto farisei, se l'ha detto, ma lo scrive il Messaggero, lo scrive Repubblica, quindi sembra abbastanza plausibile, a chi si riferiva allora secondo lei? No, se l'ha detto, se l'ha detto, cosa alla quale personalmente mi permetterà, io non credo, e lo chiederemo a lui, a chi l'ha detto. Lo chiederà a lui, va bene. Allora, intanto io vi ringrazio, il senatore Andrea Marcucci del PD, presidente della Commissione Istruzione e Cultura, e l'onorevole Daniela Santanchè, che è anche il nuovo responsabile del fundraising di Forza Italia, per essere stati con noi. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo un ascoltatore, Paolo da Pescara, e poi con noi il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, che è del Movimento 5 Stelle, per capire come il Movimento si comporterà e si comporta in questi giorni di crisi politica. Beh, un po' di crisi certo c'è quando cambia un premier. Allora, eccoci qua, voglio salutare intanto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, mi faccia sentire Paolo da Pescara, che era lì in attesa, a dire la sua. Paolo, buongiorno, e poi sono da lei. Paolo, dica. Buongiorno a lei. Dalle mie parti si dice che pensar male si fa peccato, però guarda caso si indovina sempre. Perché fermo restando tutte le cose che sono state dette già un migliaio di volte, cioè la mancanza di legittimazione popolare, cioè il rottamatore che governa con i rottamati, eccetera, eccetera. Ma è possibile, secondo voi, che Renzi sottoposto a giudizio popolare per paura dell'apoteosi? Cioè non venga, non capite, è andato via un po' il cellulare, che non venga sottoposto, lei dice? Cioè lei vorrebbe votare? Non si è sottoposto, non si è sottoposto, Renzo, volontariamente al giudizio popolare. Volontariamente. Insomma. Per paura dell'apoteosi, perché lui avrebbe Ah no, guardi che Renzi ha detto chiaramente, c'è una legge elettorale che in questo momento non consentirebbe di far uscire un vincitore, certo. Non è... Ma la legge elettorale, con tutto quello che ha detto Renzi, sì, con tutte le premesse che aveva fatto, con tutte le riforme che voleva fare, sì, lui avrebbe stravinto, avrebbe preso veramente il 60%. Ma la legge elettorale nuova non c'è. Ma io dico, a quel punto, no, lui non poteva sfuggire a quello che aveva detto. Tutte quelle riforme che lui aveva detto doveva fare veramente, e la paura secondo me l'ha attanagliata. Va bene, allora Paolo, si fermi un attimo e intanto la ringrazio per il suo intervento, che così do spazio in questi 5 minuti finali a Luigi Di Maio. La ringrazio, Paolo da Pescara. Luigi Di Maio, intanto si è chiarito, avete già chiarito chi andrà alle consultazioni, nel senso che si chiede sempre se ci sarà o meno Beppe Grillo, oppure se sarà una vostra delegazione parlamentare ad andare. Diciamo che noi chiariremo con un'assemblea del gruppo parlamentare se andremo alle consultazioni, perché lei sa benissimo quali sono i rapporti tra noi e il presidente Napolitano. Non crediamo, soprattutto nell'ultimo anno, gli ultimi due anni, si sia comportato davvero arbitro e garante della Costituzione, e dal momento che qui i giochi sono tutti decisi, si sono decisi come al solito in un'assemblea di partito di 136 persone, quando quel partito ha 400 parlamentari, sfiducia e rifiducia di un nuovo governo, io credo che a giochi già fatti dovremmo riflettere se andare veramente al Quirinale oppure aspettare questo governo e questa maggioranza in Parlamento, se ci fanno la cortesia di venirci, perché a questo punto ormai si decide tutto fuori dal Parlamento. Lei mi sta dicendo, Di Maio, che voi non avete, cioè non sapete ancora se vi presenterete al Quirinale. Lo decideremo in un'assemblea di gruppo, del gruppo parlamentare. Quando? Oggi? Ma penso in questi giorni, visto che i tempi stringono, insomma, ovviamente prima che saranno... sarebbe uno strappo istituzionale non da poco, però non presentarsi neanche. Vogliamo il diritto, vogliamo avere il diritto di poter prendere anche queste decisioni. Questo senza dubbio. Soprattutto per una questione anche di coerenza, di che stiamo parlando. Prima presentiamo l'impeachment e poi andiamo da lui. Insomma, questo è il concetto fondamentale che poi ci crea dei dubbi, però insomma lo decideremo, e non credo sia neanche questo in questo momento il problema principale. Il problema principale è che c'è stato un governo che non si è presentato neanche al Parlamento per la sfiducia, adesso va da Napolitano a dimettersi, il governo Letta, con Letta, e ne arriva un altro che comunque non è stato neanche minimamente l'idea non è stata neanche minimamente sottoposta. Però mi scusi Di Maio, la posizione del Movimento, mi sembra di capire, è si deve andare a votare, però come fa uno a mantenere una posizione, si vada a votare se puta caso neanche si presenta alle consultazioni? Non perde in qualche modo il diritto di fare una propria proposta? perché è lì sulle, nelle si consultazioni. Vada a votare, significa si vada a votare con i cittadini italiani, non no, però è nel, no, momento, è nel momento delle consultazioni che i partiti dicono: noi presidente faremmo così, poi alla fine decide il Presidente della Repubblica, ma se uno, ma non, la, si, la se la uno non si presenta neanche... La nostra posizione è chiara dal giorno dopo le elezioni, non ci sono i presupposti per fare governi, questi governi infatti, per esempio quello Letta, non ha fatto altro che massacrare gli italiani, andiamo a votare e vediamo i cittadini se cambiano idea su partiti che negli ultimi 10 mesi per esempio hanno regalato 2 miliardi e mezzo di euro alle slot machine, i 7 miliardi alle banche e la maggioranza è sempre la stessa, anzi forse qualcuno che ha votato 2 miliardi e mezzo di euro alle slot machine oggi ce lo troviamo anche in ministro. Lei esclude che ci possa essere un qualche tipo di appoggio anche sul programma a un presumibile governo Renzi in arrivo? Guardi, io in questi 10 mesi ho capito che di queste persone non ci si può fidare minimamente. Alla prova dei voti vediamo sempre se vogliono il cambiamento e se lo sanno fare prima di tutto il cambiamento. Alla prova dei voti significa quando ci troviamo in aula di fronte al provvedimento e lo stiamo votando. Gli appoggi pregressi, tutta questa roba qui, no. A me mettono solo i brividi, nel senso che questo governo che si appresta a crearsi con Renzi e così via, avrà nella sua maggioranza Giovanardi, che è quello che pensa che la pedofilia sia un orientamento sessuale e ha presentato addirittura una proposta di legge al Senato. Noi stiamo parlando di queste cose, Formigoni nella sua maggioranza, quello che ha fatto il bello e il cattivo tempo in Lombardia. Stiamo parlando di questa maggioranza, cambia il fantoccio di turno. Cambia il fantoccio, quindi Renzi è un fantoccio secondo lei? No, io sto dicendo, cioè, nel senso, semplicemente che c'è questa tendenza a cambiare le facce, ma la maggioranza resta sempre la stessa con tutte le sue intenzioni. Senta, sa che i giornali raccontano di i dissidenti, qualcuno del Movimento 5 Stelle che sarebbe disponibile in qualche modo a dare un appoggio, ovviamente adesso lei mi smentirà, no, non esiste eccetera, ma la domanda è questa: se uno del Movimento 5 Stelle appoggiasse e desse la fiducia, automaticamente è fuori dal Movimento? Allora, nel nostro codice di comportamento c'è scritto che noi non diamo fiducia a prescindere a nessun governo se non al nostro e poi collaboriamo con le forze politiche punto, provvedimento per provvedimento. Io mi sento di dire che in questo momento il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato, è il più compatto di tutto il panorama politico. Adesso vedremo il PD nei prossimi giorni cosa succede. I nostri senatori ci dicono che 12 tra senatori e deputati del PD avevano addirittura chiesto di entrare nel Movimento 5 Stelle, cosa che è impossibile, ma che fa capire in che panorama politico siamo oggi. Di Maio, mi faccia fare l'ultima domanda, che siamo in chiusura, e per le vicende note, le questioni, le risse che ci sono state. Lei da vicepresidente della Camera è mai sentito in imbarazzo in questi giorni con la presidente Boldrini, che insomma ha molto polemizzato con voi, visto che vi vedrete tutti i giorni? Sentito in imbarazzo quando la presidente Boldrini ci ha definiti potenziali stupratori, noi che partecipiamo ai sondaggi sul sito del Movimento 5 Stelle. Questo è stato imbarazzante. Per il resto nessuno ha avuto da eccepire sul mio ruolo, perché credo di esserne consapevole, e infatti io sono stato una di quelle persone che non ha partecipato a quei gesti e che in ufficio di presidenza sono il primo a dire: chi sbaglia paga, però vogliamo forse dire che quei gesti sono più gravi di 7 miliardi e mezzo di euro trasferiti alle banche da parte di questa maggioranza? Non credo. Poi tutto il resto possiamo parlare per ore di questo genere di comportamenti in aula che si tengono fin dai padri costituenti, certo, e sono anche la reazione delle opposizioni quando gli si tappa la bocca. Allora, io mi devo fermare qui, la ringrazio molto, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Vedremo ovviamente nel corso delle ore che succederà il governo. Grazie a tutti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo lunedì 6:30. 24 mattino.